Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Il termometro più attendibile in questo caso sono i bookmakers. Dopo la vittoria di Londra, l'Inter è scesa a 5 nella tabella Unibet sulla vittoria finale in Coppa Campioni, preceduta soltanto da Barcellona a 3,20 e dal Manchester a 4,25. Seguono al momento in lavagna l'Arsenal a 7, il Bayern Monaco a 12 e il Lione a 16. C'è però da notare una cosa, che non vorrei che i bookmaker mettessero il cavallo davanti... il carro davanti ai cavalli, i buoi, quello che volete, perché stasera il Barcellona deve ancora eliminare lo Stoccarda, e poiché una settimana fa in casa al Bernabéu è saltato il Real Madrid con il Lione, ieri sera al Sanchez Pichiguan il Siviglia ha perso in casa col CSKA di Mosca, c'è un certo proverbio del non c'è due senza tre, sicché stasera credo che ci saranno molti amuleti al Camp Nou. Per effetto della vittoria dell'Inter è già cambiato il calendario di campionato stamattina. La Lega Calcio ha deciso di far giocare la sfida Roma-Inter in programma per domenica 28 all'Olimpico il sabato precedente, cioè alle 18 di sabato 27, per dare ovviamente una giornata in più di recupero all'Inter, visto che le partite di andata sono fissate già per martedì 30 e mercoledì 31 marzo, e venerdì si saprà l'esito del sorteggio. Grande giornata di campionato, quindi quella di sabato 27 marzo, perché dopo Roma-Inter delle 18 si giocheranno alle 20.45 contemporaneamente Milan-Lazio e Palermo-Bologna, praticamente tutta l'alta classifica del campionato. È stata da parte dell'Inter la partita perfetta, con la P maiuscola, un primo tempo di controllo quasi totale con quella sola eccezione degli ultimi 5 minuti e un secondo in cui il controllo è diventato dominio pressoché assoluto, al massimo di nuovo quei 5 minuti, stavolta i primi anziché gli ultimi. Mourinho ha indovinato assolutamente tutto, a cominciare da Eto'o e da Pandev per tenere lontani i loro esterni e fare in modo che potessero avanzare solo i cammelloni lenti del centrocampo del Chelsea, che o avanzano con gli esterni affiancati e allora riescono a essere un pochino più imprevedibili, o se no, non avendo il cambio di passo a cominciare da Ballack contro gente duttile e che il cambio di passo ce l'ha come quelli dell'Inter, di margini non ce n'erano. La serata no, di Lampard e di Drogba, come in parte già a San Siro, poi ha fatto il resto della differenza, a parte che al punto che l'unico rischio prima del gol di Eto'o era stato quello di averne sbagliati troppi di gol o di occasioni potenziali, con la conseguenza che in quei casi la nemesi è sempre in agguato. I commenti della serata, a cominciare da quello del trionfatore di Stamford Bridge, perché giustamente gli sono stati tributati i massimi onori sia ieri sera prima della partita che dopo, e che stamane dalla stampa britannica. Sentiamo il commento sulla partita di Mourinho. Conosco questo stadio, conosco questa atmosfera, conosco i giocatori, il tipo di giocatori, e sempre ho pensato che era impossibile pareggiare 0-0 giocando difensivamente. Si poteva pareggiare 0-0, però giocando offensivamente, non difensivamente, perché il loro gioco è un gioco prevedibile, si può dire molto prevedibile, è una squadra che gioca sempre dello stesso modo, però è difficile di giocare contro questa prevedibilità, perché è una prevedibilità con una dinamica perfettamente adatta alla qualità dei giocatori, e per questa ragione io ho pensato che era questo il modo di giocare. Si poteva pensare Ivanovic e Zirkov attaccano tanto, difendiamo, o Ivanovic e Zirkov devono pensare due volte se devono attaccare tanto, e hanno pensato due volte perché non hanno stato così bravi come di solito stanno in attacco, e dopo loro spalla noi più veloci, più dinamiche, il gol è un grande esempio di quello che noi volevamo fare, che in primo tempo abbiamo già cercato di fare una volta in fuori gioco, però già vicino a questo tipo di movimento. E dopo il principale in calcio, che è la testa, che è la mentalità, che è l'atteggiamento, e che è il coraggio e la fiducia di giocare questa partita del modo che noi abbiamo fatto. Chelsea disintegrato dalla vittoria dell'Inter, ha titolato il Guardian. Il titolo del Times è: l'Inter è una squadra migliore, più organizzata, meglio preparata. Il Telegraph si è dilungato un po' di più nei sommari. Ancelotti ha scritto: non può essere l'unico colpevole dell'eliminazione dei Blues. L'italiano ha bisogno di tempo e magari di un giocatore come Snyder, uno zeffiro creativo, l'ha definito, con capacità di passaggio devastante per la difesa avversaria. Infatti i due assist della ripresa di Snyder, in particolare quello per il gol e quello prima sbagliato su cui poi si è un po' incartato Pandev, sono stati effettivamente due zeffiri, come li chiama questo giornalista inglese. Le stelle del Chelsea, anzi le presunte stelle del Chelsea, scrive il Telegraph, incapaci di confermare ancora una volta a livello internazionale la loro qualità, uno per tutti Didier Drogba, che ha chiuso un'altra stagione europea tra delusione e vergogna. Un altro lungo frammento di Mourinho che riguarda, cioè a proposito della qualificazione. È un grande momento per l'Inter, per tutti i giocatori che anno dopo anno facevano fatica a oltrepassare questa barriera degli ottavi di finale. E è una qualificazione non con fortuna, non con un gioco difensivo, non perché l'avversario non ha giocato bene, è una vittoria perché noi abbiamo fatto come squadra e come individuale una prestazione incredibile. Squadra perfetta e ogni giocatore dal primo all'ultimo a fare il suo lavoro di un modo assolutamente perfetto. Come minimo è la partita che porta Inter in quarto di finale, che non arrivava in quarto di finale da qualche anno. Manchester, Liverpool, Villarreal, Valencia, non lo so se qualcuno ancora prima, e l'Inter sempre con difficoltà a non arrivare in quarto di finale, e non solo a non arrivare e a non stare vicino ad arrivare. Abbiamo vinto due volte il Chelsea, che è una grande squadra, e penso che siamo, senza nessun tipo di discussione, la squadra che merita stare nel quarto di finale. Mi chiedo, scrive Luca da Milano, dopo la partita di ieri sera, se sia giusto dare tutto questo risalto all'operato dell'allenatore e poco o niente a quello dei giocatori. No, non è certamente giusto in assoluto. Nel caso di ieri penso che ci stia, perché è indubbio che Mourinho ha schierato una formazione di grande coraggio, ha dimostrato e ha confermato una volta di più di conoscere a meno dito il Chelsea, e ha meritato la vittoria, l'Inter, più nettamente di quanto non l'avesse meritata a San Siro, dove invece qualche ampio motivo di discussione poteva anche esserci. Quindi io credo che sia giusto, anche per i significati che aveva il ritorno su un campo dove aveva avuto tante vittorie e dove poi era stato cacciato in maniera abbastanza ingloriosa. Quindi c'era, cioè, che il personaggio di ieri sera fosse Mourinho, comunque andava a finire, a maggior ragione con questo esito, mi pare non ci siano discussioni. Poi credo che nessuno si nasconda o sottovaluti il valore dei giocatori, fermo restando che poi sono loro ad andare in campo e tu li puoi schierare come ti pare e puoi raccontargli quello che ti pare, ma se poi loro non interpretano al meglio non c'è niente da fare. E i giocatori dell'Inter sono di una qualità particolare. Cioè io credo che se cominciamo a esaminare le cose con un po' di razionalità, io credo che la notizia fosse quando l'Inter balbettava in Coppa nei turni eliminatori, non tanto adesso che se la gioca alla pari col Chelsea, anzi il Chelsea lo batte persino due volte in andata, all'andata e al ritorno. E se prendiamo i giocatori in campo ieri sera, gli 11 dell'Inter e gli 11 del Chelsea, beh, io voglio vedere in una formazione ideale quanti ne entrano del Chelsea. Se dipende da me, Drogba, Lampard e Malouda, ma solo sulla carta i primi due, però, perché i Drogba e Lampard adesso sono completamente fuori forma, gli altri ruolo per ruolo sono tutti più forti quelli dell'Inter. Torniamo in onda con i primi interventi degli ascoltatori. Per esempio ha chiamato Luciano dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Niente, volevo fare questa considerazione. Secondo lei il fatto che l'Inter abbia preso il Chelsea, magari non il Manchester o l'Arsenal come squadra inglese, è la squadra che fa un po' meno veloce, diciamo, manovrato più di manovra di Luciano, cioè, sì. No, sono costretto a congedarla, mi scusi, perché la sua domanda è arrivata chiara come concetto, non chiara come ricezione. Allora mi fa segno dalla regia che comunque il concetto è abbastanza chiaro. Sì, io credo che sia così, ma questo non per sminuire il Chelsea, ma semplicemente Perché squadre di queste caratteristiche sono più alla nostra portata, di squadre italiane in genere e in particolare di una squadra forte come l'Inter. È la stessa ragione per cui, se dovessi augurare all'Inter un sorteggio per venerdì, gli augurerei il Bayern, per la stessissima ragione del Chelsea, cioè una squadra che c'è Robben lì che è un pericolo, ma insomma anche il Chelsea qualche giocatore di qualità l'aveva, anzi anche di più. Però sono squadre che avanzano un po' a plotoni affiancati, no? Che il cambio di marcia non ce l'hanno, che fanno fatica a essere imprevedibili o estemporanei, e mi pare che questo sia una caratteristica che, come dire, agevola squadre come le nostre, in particolare una squadra straforte come l'Inter. Daniele, Torino. Buongiorno, io volevo solo fare una constatazione. Credo che in particolar modo l'azione del gol di ieri sera abbia sancito il fatto che la campagna acquisti della scorsa estate sia stata nettamente a favore dell'Inter piuttosto che del Barcellona, nel senso che non solo Eto'o ma anche Sneijder hanno contribuito a giustificare questa operazione, a giustificare la vendita di Ibrahimovic. Eto'o finora non aveva fatto granché, però ieri sera ha avuto due palloni, il secondo l'ha sfruttato come meglio non si poteva, insomma. Sì, sì, è vero, e poi ha lavorato molto. Io credo che a dispetto di quel gol che ha segnato alla fine e del tanto lavoro che ha fatto, io quando ho visto in alcune pagelle di stamattina Eto'o migliore in campo, non un piccolo soprassalto l'ho avuto, perché se è migliore Eto'o, allora Sneijder che cos'è? Allora Lucio che cos'è? Sulla doppia partita andata e ritorno Lucio ha giocato 180 minuti da gigante, addirittura stratosferico. E che partita ha fatto Cambiasso ieri sera? Però è ovvio che quando fai una prestazione complessivamente così, e Samuel una prestazione complessivamente così, non dico perfetta ma quasi, è ovvio che tutti hanno dato il loro contributo, dunque anche Eto'o, che poi ieri sera, per quello che riguarda il tabellino, è anche riuscito a essere decisivo. Però il discorso di fondo secondo me rimane quello che per esempio ha fatto stamattina Mura su Repubblica. Allora Gianni scrive ad un certo punto del suo commento questo concetto: che cosa hanno in comune una squadra presa a pallate dal Catania e una che fa sembrare il Chelsea una squadretta di fondo classifica? La maglia a righe nerazzurre. Ed è forse nei momenti di maggior tensione, di maggior difficoltà, che Mourinho riesce a ottenere il massimo e anche qualcosa di più dai suoi. Lo Special One si conferma un sublime gestore di emergenze, della normalità un po' meno, ma questo è un discorso che in una sera di meritata festa può sembrare stonato. Lorenzo Belluno, buongiorno. Buongiorno, due considerazioni veloci. Allora, il primo è che Mourinho secondo me ha detto una verità assoluta, cioè che può essere di insegnamento anche a molti allenatori, dicendo che si può fare 0-0 attaccando ma non lo 0-0 difendendo. E mi riferisco al fatto che molti allenatori italiani in molti club, quando vanno in Inghilterra, si difendono e finiscono per prendere 3-4 gol. Vedi, sì, Milan, Lorenzo, e vedi anche, speriamo la Juve, speriamo che non le prenda anche la Juve. Lorenzo, io le ricordo soltanto che queste lezioni arrivano da prima, cioè adesso è stato bravo a applicarla Mourinho ieri sera e tutti gliele diamo merito, ma vorrei ricordare che è passato un certo Sacchi nel calcio italiano e ha fatto qualche trasferta in Inghilterra. Vorrei ricordare la lezione degli olandesi che per primi andarono ad attaccare gli inglesi sul loro campo a Wembley anche con la nazionale e se ne tornarono a casa con un sacco di gol fatti e non subiti. Quindi insomma è giusto così, e nel calcio moderno è giusto a maggior ragione, anche e soprattutto perché c'è questa regola del gol che vale doppio. Prima un ascoltatore di prima parlava, insomma mi sembra di ricordare che parlasse di giocatori di altre squadre, citava altre. A me ieri sera vedendo Sneijder e pensando che Real Madrid è a casa, veniva in mente che le figurine bisogna anche saperle collezionare, però, perché questo Florentino Perez che arriva a Madrid non solo spende 260-280 milioni di euro, cioè roba veramente da carcerarlo, no? Come direbbero a Roma, roba veramente da rinchiuderlo. Ma in questa frenesia di Benzema, di Kakà, di Ronaldo, di cose, per bravi che possano essere, ma svende o comunque lascia andare a prezzi di saldo due che si chiamano Snyder e Robben. Ora, Snyder e Robben, auguriamoci come Italia di non ritrovare l'Olanda nell'ottavo di finale dei mondiali, perché Snyder e Robben attuali sono due giocatori che nel Real Madrid servirebbero assolutamente come il pane, e se vogliamo tornare indietro di qualche anno gli servirebbe come il pane che cambiasso, cioè sta ancora giocando Guti nel Real Madrid, e Cambiasso all'Inter alcuni anni ed è venuto a parametro zero, quindi quando per esempio si mitizza il Real Madrid bisogna tener conto di queste sciocchezze o idiozie assolute che ha fatto negli anni e che sta continuando a fare. Da Torino, Marco, buongiorno. Buongiorno, so che a lei non piace commentare i voti sul giornale, però io stamattina sulla stampa ho letto due voti che mi hanno un po' colpito, volevo sentire il suo parere. Se Drogba sei e mezzo ha colpito anche me. Ecco. Sì, sì. No, io penso a un refuso, insomma, perché quando ho visto Drogba 6,5 sinceramente l'ho trovato un po' imbarazzante, ecco. Non è di Beccantini, è di un altro collega. Se era di Beccantini l'avrei chiamato per chiedergli conferma di un refuso, insomma. E l'altro che l'ha colpito qual è? E l'altro è Lucio che ha preso 6. Anche lì è un altro bel votato. Cosa vuole? Il calcio è bello perché è vario, e quindi lo si può leggere in tanti modi. Certo, questo che ci sta segnalando lei e che d'altra parte mi ha già fatto sobbalzare stamattina, ripeto, è un modo abbastanza singolare. Cristian ha chiamato da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Una considerazione su ieri sera è una considerazione generale. Come mai l'Inter alterna partite ultimamente di campionato molto molto molto scadenti? Se tutto è dovuto all'impegno di ieri sera, comunque in generale, in Champions League, e come mai Mourinho si ostina solo unicamente a bistrattare Balotelli di volta in volta, anche se ha una testa calda. Un ragazzo di 19 anni con quelle potenzialità, secondo me, ha bisogno di essere messo in campo. Solo questo, attendo la sua risposta per radio. Sì, grazie. Sono i discorsi che si sono fatti prima, poi nel caso di ieri sera ha avuto ampiamente ragione Mourinho, perché i fatti hanno confermato la bontà delle sue scelte. Rimane da una parte in positivo la lezione data a un ragazzo che evidentemente ha un gran bisogno di maturare, dall'altra rimane quel pizzico di autolesionismo, non aver almeno convocato un giocatore che, se non so, in riscaldamento si stira e to piuttosto che si stira Pandev, piuttosto che sente un indurimento Milito, insomma, tutto sommato era meglio averlo, uno come Balotelli a disposizione, che non averlo. Ma questi evidentemente sono discorsi del prima. I discorsi del poi non contano più, come non contano quelli che fa per esempio Fabrizio da Pesaro. Pesco un messaggio a caso tra i tanti di questo tenore: scusate, ma io credo che i due rigori negati tra andata e ritorno agli inglesi potevano cambiare volto alla qualificazione. Fabrizio, questo è un modo italiano, no? Rispondo a lei, ma rispondo a tanti. Questo è un modo italiano di leggere le partite. Il modo inglese è diverso, cioè secondo gli inglesi, che pure hanno subito certamente un torto netto all'andata, all'ultimo minuto del primo tempo, perché è chiaro che giocare poi il secondo tempo di San Siro in 10 e avendo prima subito, magari non incassato, ma certamente subito un rigore, avrebbe cambiato tutto. È chiaro anche che ieri nel finale del primo tempo due trattenute plateali ai danni dei giocatori del Chelsea sono state effettuate, e se l'arbitro le avesse viste o ne avesse vista una, tutto sarebbe cambiato. Questo è un modo italiano di leggere la partita, cioè attraverso gli episodi. C'è un modo invece internazionale e britannico in particolare di leggerle, per cui lei giri pure sui quotidiani inglesi, senta cosa dice in particolare quel signore di Ancelotti, che in questo senso è molto british, e non troverà traccia di questi discorsi. Quindi cosa vuole che le dica? Beati loro, dal mio punto di vista, perché questi due episodi avrebbero certamente influito e magari cambiato il corso della qualificazione. Sarebbe stato un peccato, perché per quello che si è visto nelle due partite, di qualificarsi l'ha meritato l'Inter. fanno notare alcuni ascoltatori, a parte i discorsi arbitrali, cosa avrebbe fatto Mourinho nei panni dell'allenatore del Chelsea, è meglio non immaginarselo. Mourinho può essere il più bravo allenatore del mondo da un punto di vista tecnico-tattico, da un punto di vista comportamentale continuiamo a lasciarlo perdere, per cortesia. No, questo discorso ne introduce un altro, che per la verità abbiamo già anticipato ieri, e cioè ieri sera c'era una squadra interamente composta di stranieri in campo, una squadra italiana a Londra. Allora, al di là della polemica Balotelli, e mi rivolgo a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buongiorno Marco. Buongiorno. Dandoti il bentornato. Al di là di questa valutazione, cioè di questo dato statistico, significa tante cose. Significa che dalla legge Bosman in avanti il calcio era cambiato in una certa maniera. Ieri è stato fatto. È stato compiuto un primo piccolo passo per forse che potrebbe riequilibrare questa situazione in un senso un po' più nazionalistico dei club, nazionalistico nel senso nazionale, quindi nel senso migliore possibile. Come e attraverso che cosa? Almeno è quello che ci si augura. La Corte di Giustizia Europea è tornata a discutere, a decidere su un caso, diciamo, di calcio e liberalizzazioni dopo 15 anni dalla famosa sentenza Bosman, e ha sancito un principio molto importante, che è quello della tutela dei vivai e dell'indennizzo che deve essere sempre e comunque riconosciuto ai club, soprattutto a quelle squadre più piccole che formano, che addestrano i giovani calciatori e che spesso in questi anni si sono visti invece scippare dai club più facoltosi e spregiudicati questi giovani calciatori senza ottenere granché. Diciamo subito che sono molti i regolamenti nazionali delle federazioni e c'è il regolamento della stessa FIFA che prevede in linea teorica questo diritto ad un premio di formazione, ma non sempre questo premio poi viene riconosciuto e pagato, soprattutto quando si tratta di trasferimenti internazionali. Con questa sentenza, che cerca di porre un po' di argini agli effetti devastanti che ha avuto la sentenza Bosman, si cerca di recuperare quel valore sociale di formazione educativo dello sport, in particolare del calcio, che la Corte di Giustizia riconosce formalmente ed esplicitamente. E mi sembra importante, poi vedremo come sarà attuato nei prossimi anni questo principio, ma il fatto che sia stato chiarito al massimo livello della giurisprudenza comunitaria credo che sia un buon viatico, soprattutto per quei progetti che ha la UEFA di Michel Platini di riformare in senso etico il mondo del calcio. Insomma. È il primo segnale contrario, mi pare, che arriva rispetto alla liberalizzazione indiscriminata che si è applicata allo sport in questi anni. Chiariamoci, per molti può essere un bene che ci sia stato questa globalizzazione. No, ma questo è un altro discorso. Il segnale della globalizzazione non era un bene che non ci fosse nemmeno un minimo di paletto, insomma. Il problema, a mio avviso, nasce non tanto poi dai club professionistici, dove appunto si può riscontrare un aspetto positivo. Ieri sera, per esempio, nelle partite di Champions, il gol che ha portato i russi ai quarti di finale è stato segnato da un giapponese contro una squadra spagnola. Certo, quindi insomma è evidente. Il calcio è quello oggi. Il problema nasce proprio nei vivai. Chiunque si occupi un po' di calcio giovanile o gli piace guardare, non so, il torneo di Viareggio, ha potuto constatare che ormai anche le squadre primavera o le squadre giovanili sono piene di giocatori stranieri. Allora, vediamo se riesco a tradurlo un pochino più in pratica, visto che poi ci sono, mi segnala dalla regia, ci sono decine, milioni e milioni, avrei detto Viscardi, di ascoltatori che incombono. Vediamo se riesco a tradurlo in pratica. Da ieri il Gallipoli, l'Alto Adige, la Provercelli possono sperare concretamente di continuare a formare dei calciatori. Il giorno che hanno creato, che hanno allevato un talento vero e che arriva l'Arsenal o il Manchester o va a sapere chi a rapinarglielo, hanno perlomeno diritto a un indennizzo più congruo. Ma più congruo, secondo te, cosa significherà rispetto ad oggi? Per arrivare verso i soldoni, se non proprio ai soldoni. I soldoni, la Corte ha chiarito che quando una squadra forma un calciatore o giovani calciatori ha ovviamente la speranza che tutti diventino dei campioni, questo sì. Non sempre accade, ma sostiene certo. Delle spese che riguardano tutti questi calciatori. L'indennizzo dovrà essere tradotto in una somma che permetta a questa società di recuperare le spese sostenute non solo per formare quel campione, ma tutti questi calciatori. Quindi ci si augura che quando saranno poi riscritte le regole nazionali sulla base di questa sentenza, diciamo, i livelli attuali vengano elevati. È difficile dire di quanto, ma sicuramente dovranno essere più alti di quelli attuali e permettere di ripagare tutte le spese sostenute per formare le speranze, insomma, del calcio italiano in futuro. Questo servirà. E questo è un capitolo, no? Ed è un capitolo inedito perché ho letto oggi il tuo servizio su Sole 24 Ore, ripeto, ieri era uscita questa agenzia che comunque un minimo di rimbalzo l'aveva avuto subito. La settimana scorsa invece, o comunque pochi giorni fa, mentre qui si intravede, come dire, una sorta di accelerazione verso un progetto un pochino più, chiamiamolo etico, chiamiamolo nazionale o quello che è, c'era stato un rallentamento del famoso progetto Fair Play finanziario Platini, nel senso che era stato Rummenigge a rilevare che non si parla più di 2013, ma ragionevolmente si parlerà di 2015. Allora sono sempre due le chiavi di lettura in questo caso, e da qui la domanda: è un modo rinviare per fare le cose più credibile, più serie, oppure è l'inizio di un annacquamento? A mio avviso rinviare era inevitabile perché l'indebitamento di molti club, soprattutto di quelli di prima fascia, era tale che, insomma, non si poteva in pochi anni riequilibrare seriamente i bilanci, a meno che non arrivasse l'Abramovic della situazione e firmasse un assegno da 500 milioni, ma di Abramovic ce ne sono pochi. Nel mondo del calcio. Detto questo, ci si augura che a questo punto il panel di esperti che è stato nominato lo scorso novembre, che dovrà guidare il nuovo, diciamo, l'applicazione delle regole del fair play finanziario voluto da Michel Platini, sia tale da applicarlo in maniera seria e ponderata. Questo rinvio, appunto, dovrebbe consentire di avviare un processo più lento, ma si spera più efficace da questo punto di vista. Marco, io ti ringrazio, oggi ti congedo anzitempo perché non è... Se no ci becchiamo, non dico gli insulti, ma insomma gli affettuosi rimbrotti degli ascoltatori che vogliono intervenire. Oggi mi sembra assolutamente doveroso. Un atto dovuto rispetto a questa finalmente Inter, no? Dopo tutti questi anni di stenti internazionali. Grazie. Grazie a voi. A Marco Bellinazzo. Franco, chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Senta, volevo andare... Non controcorrente, ma insomma... Io volevo fare una valutazione su Mourinho. Nel senso che al calcio serve più persone come Mourinho o come Ancelotti? Secondo il mio punto di vista servono più persone come Ancelotti, perché fanno più bene al calcio. Io non dimentico, pur essendo interista e pur essendo contento della vittoria di ieri, però non dimentico le frasi di Mourinho dopo il derby e quelle cose lì che secondo me fanno male al calcio. 10 Ancelotti, un Ancelotti non vale un Mourinho, era solo una considerazione. Ma sì, Franco, da interista, io credo, sì, da interista l'ho capito. Beh, insomma, non è mica detto che tutti gli interisti debbano, non è detto che per tifare per una squadra si debba prima versare il cervello all'ammasso, anche se è una pratica ben consolidata. Beh, da un punto di vista etico e comportamentale non c'è dubbio che dal mio punto di vista lei abbia non ragione ma straragione. Da un altro le dirò che il calcio è bello proprio perché è vario. Secondo me nel calcio di oggi io applico la regola un po' del circo: più gente entra più bestie si vedono, no? Si diceva una volta con i banditori che richiamavano per l'appunto la folla. Mourinho è un personaggio che nel calcio da un punto di vista anche di rappresentazione, da un punto di vista folcloristico, nel calcio ci sta, e come, il suo posto lo tiene, la ribalta la sa occupare in una maniera a volte perfetta, istrionicamente perfetta, a volte assolutamente insopportabile. Chiaro che uno che ha la compostezza e la classe di Ancelotti, quando vince e quando perde, non è che lo trovi tutte le mattine. Anche in Italia, senza arrivare a questi estremi di allenatori di primissimo livello, anche allenatori più che quella carriera magari la faranno, ma la devono ancora fare, si distinguono per atteggiamenti abbastanza antitetici, cioè Mazzarri non è mai colpa sua se perde una partita o colpa del Napoli. Allegri per esempio è uno che se anche pensa che non sia colpa sua, Allegri è un ancelottiano per capirci, Mazzarri è un murignano. Alberto Verona, buongiorno. Buongiorno. Anch'io sono un tifoso ovviamente interista e oggi ci scateniamo. Era una considerazione, cercavo di fare una chiave di lettura diversa su Mourinho, cioè io anche per lavoro eccetera sono abituato a cercare di vedere il buono che c'è o il positivo che c'è nelle varie professionalità, per cui rispetto a un Mourinho che sappiamo com'è, non è forse meglio sia a livello tecnico che soprattutto a livello giornalistico cercare di carpire da lui gli insegnamenti tecnico e tattici e non continuare a stimolarlo solo sulle polemiche arbitrali? Alberto, mi dice chi l'ha stimolato quando ha fatto il gesto delle manette? Il 5% delle domande che i giornalisti gli rivolgono, compreso anche in ambito internazionale. Non gli hanno chiesto niente di tattica, gli hanno chiesto di Balotelli, gli hanno chiesto delle polemiche arbitrali, tanto che è stato costretto a dire non parlo del campionato italiano, no, ma dipende fuori altri cose. Anche in ambito internazionale gli hanno chiesto così i giornalisti italiani. Ma può essere, è la nostra cultura, è quella che le citavo prima a proposito degli episodi. Diciamo che questa cultura italiana è il brodo di coltura in cui comunque Mourinho sguazza dal giorno in cui è arrivato. Questo indipendentemente dai suoi pregi o difetti, in questo caso, nel caso di ieri sera, grandi pregi da un punto di vista strettamente professionale. Beh, comincio ovviamente il Toto sorteggio. Per esempio Stankovic stanotte tornando alla Malpensa, e tra l'altro c'era un sacco di gente in festa ad accogliere l'Inter. Stankovic si è augurato il CSKA di Mosca, che ha vinto ieri a Siviglia e ha eliminato gli spagnoli. Io dicevo prima del Bayern, insomma c'è tempo, anche perché stasera ci sono ancora due partite e sono favoriti sia il Barcellona che il Bordeaux, che sarebbero un ostacolo altissimo uno e insomma insidioso l'altro, ma se per caso invece dovesse andare come è andata fin qui per qualche partita, ovviamente con l'Olympiacos e magari con lo Stoccarda si farebbero poi tutti altri discorsi. A quel punto la strada diventerebbe un'autostrada vera e propria. Una battuta di Petrucci, presidente del CONI, azzeccata, non c'è dubbio. A proposito di ieri sera dice: voglio farvi notare una cosa, si parla sempre dei nostri stadi, ma avete visto su che campo si è giocato? E in effetti l'ho trovato sbalorditivo il campo del Chelsea, perché siamo abituati a vedere i cosiddetti prati all'inglese, ma insomma comunque campi stupendamente pettinati e dove la palla corre che è una meraviglia. Il campo di ieri sera sembrava quello di Napoli o di Marassi o di Bari, con tutto il rispetto, che poi non c'è, perché sono campi veramente brutti per giocare a pallone. Il ripasso di storia, dunque, Nicola Filippone. Sembra ieri. 17 marzo 1976. A San Siro il Milan batte 2-1 il Bruges di Est Appel, ma viene eliminato dai quarti di Coppa UEFA in virtù del 2-0 subito all'andata. A nulla servono le reti di Bigone e Chiaruggi, che avevano consentito alla squadra guidata dall'esordiente tecnico Trapattoni di tornare in corsa. Il gol che sancisce l'eliminazione lo realizza su calcio di rigore Inderiks. Ma i rossoneri recriminano per un episodio incredibile accaduto all'andata, quando l'arbitro francese Villani non aveva convalidato un gol di Sabadini, sostenendo di aver fischiato la fine del primo tempo prima che la palla varcasse la linea di porta. Ma senti che anche Filippone comincia a fare l'italiano a sua volta, con un gol di Tato Sabadini di 30 anni fa addirittura. Massimo da Taranto, buongiorno. Buongiorno, Sor Ganzi. Dica. Io volevo spezzare due lance a favore di Mourinho. Due addirittura? Sì, due. La prima riguardo la formazione, perché io sono un tifoso interista, ho 45 anni, quindi la mia Inter è quella di Altobelli, Beccalossi, Murari, che prendeva sempre pallonate da Santillana e Juanito. Sì. E quindi vedere giocare l'Inter con tre punte dopo tanti anni, insomma, secondo me è stata una bella invenzione, una bella scelta tecnica. Sì. La seconda morale, sull'esclusione di Balotelli e sulla scelta tecnica, secondo me Mourinho ha voluto dare un segnale forte dicendo che tu puoi essere pure un grandissimo giocatore, può essere pure la grande speranza del calcio italiano, però devi stare al posto tuo e devi comportarti in una certa maniera. Certo. Mi ricordo una volta Giancarlo Primo, cioè un allenatore di basket della squadra nazionale italiana, che disse all'epoca che non prendeva Mike Silvestri in nazionale pur essendo italiano, perché lui voleva vincere e voleva vincere con giocatori di squadra italiana. Adesso non è lo stesso paragone, però parafrasando si può dire che se bisogna vincere con un certo stile e con un certo rigore. Tutto qua. Sì, ecco, vincere con un certo stile, va bene, va bene. Oggi va bene tutto. Perché sinceramente lo stile di Mourinho è meglio che andiamo da Lorenzo da Roma. Buongiorno. Buongiorno Garanzini. Mi dica. Io sarei un po' stanco di tutto questo tantam mediatico a favore e in qualche caso contro di Mourinho. Sì. Lui è tanto bravo a essere direttore marketing di se stesso, questo nessuno lo nega. Leggevo i giornali, ho ascoltato la vostra radio e qualche altra trasmissione questa mattina, veniva esaltato perché ha schierato 3 punte. Ma ne ha schierate anche 4 quando ha pareggiato col Siena o in altre circostanze. Certo, dove l'Inter rimediando a formazioni sbagliate magari in partenza. Nel caso di ieri sera invece ha azzeccato tutto dal primo all'ultimo istante. Certo, il concetto è questo. Questo si diceva. Non mi sembra che abbia fatto nulla di straordinario. Primo. Secondo, gode di una rosa che probabilmente il 50% di quella rosa sono tutti giocatori che lui non convoca nemmeno, che in qualsiasi altra squadra di Serie A o di altro massimo campionato europeo giocherebbero titolari. Ma questo ci mancherebbe altro che non va a schierare 3 punte come ha fatto ieri sera, devo dire ha fatto bene. Vediamo, io non voglio Questo ci mancherebbe altro, no, perché che goda di una straordinaria rosa non c'è nessun dubbio, che uno può godere una straordinaria rosa e poi non essere invece così bravo a schierare le pedine giuste per nuocere all'avversario. Ieri sera, come sempre nel calcio, si tratta di esaltare tutto quello che puoi della tua squadra e di mettere l'altra nelle condizioni possibilmente di non nuocere. E lui ha azzeccato tutte e due le cose, e quindi non è ci mancherebbe altro, perché comunque di scelte da fare ce n'erano, e lasciare fuori uno come Stankovic per fare un nome soltanto e a casa uno come Balotelli non è esattamente una barzelletta. Che invece la rosa sia strepitosa non c'è nessun dubbio. Gianfranco scrive, per esempio, ha letto una delle tantissime mail di stamattina, mi permetto di dire che tutto si può dire di Mourinho, bisogna ammettere che è riuscito a gestire perfettamente una squadra storicamente folle nel momento più importante della stagione, facendola giocare non arroccata ma attaccando, senza che vi siano stati contraccolpi o sbavature di alcun tipo. Questa è un'analisi perfetta di un ascoltatore, che poi aggiunge, e qui mi riaggancio a lei, è vero che l'Inter, con il potenziale che ha, potrebbe giocare al meglio anche con il profeta Manfredi in panchina. E qui Gianfranco secondo me esagera, perché con Manfredi non si andrebbe da, insomma, non si può esagerare, però è per dire di che forza sia la rosa dell'Inter. Davide Fabri da Imperia scrive, vi seguo da molto eccetera, ho rivisto in TV le immagini della candidata sindaco di Roma Cavaccioni sulle protezioni dello Stadio Olimpico, mi sono deciso a scrivervi perché io penso, senza minimamente addentrarmi in discorsi politici, che un rappresentante istituzionale Non dovrebbe comportarsi in questa maniera. Allora, non è ancora un rappresentante istituzionale, per il momento è una candidata. Al quadro che lei aggiunge dei cavalcioni nel nido degli ultra della curva, aggiungo il fatto che di fianco a lei c'era il prode Zarate, che si è esibito in un fastoso saluto romano immortalato oggi da tutti i quotidiani con apposita fotografia. C'è anche chi dice, anzi quasi tutti per la verità scrivono, che Zarate forse non sa che significato abbia il saluto romano. Non faccio fatica a crederlo conoscendo Zarate, però insomma lo conoscono molto bene tutti quelli che gli stanno intorno e che hanno a cui sono andati a fare compagnia domenica questi due personaggi, un giocatore e un candidato. Giulio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini, è sempre un piacere sentire di persona. Ecco, il discorso su Mourinho, non dirò nulla di originale probabilmente, se non che lui le partite vuol vincerle Mourinho, a lui che vinca l'Inter o che vinca il Chelsea o che vinca il Porto, importa credo ben poco. Lui usa il materiale per avvalorare solo Giulio, questa se mi perdona l'aggettivo è una sciocchezzuola, il sostantivo è una sciocchezzuola, nel senso che il super io di Mourinho sia smisurato non c'è nessun dubbio, che ne voglia vincere per sé, che sappia poi, come dire, monetizzare i suoi successi di ogni genere, non c'è alcun dubbio, ma che vinca per sé e non per l'Inter o per il Chelsea mi sembra una di quelle sciocchezzuole, ripeto, di cui potrei, insomma, che ci potremo anche ogni tanto risparmiare. Invece qua, come è noto, ci risparmiamo molto poco. Tantomeno i saluti a Flavio Suardi e i ringraziamenti a Flavio Suardi, a Franco Piantanida e a Fabio Cantadori in regia. Buon pomeriggio.